figli di un Dio minore. Cronache e storie di impegno sociale. Buona giornata da Valentina Furlanetto. Quest'oggi andiamo nel sud Italia, in particolare in Calabria, a Rosarno, dove nei giorni scorsi sono scoppiati dei tafferugli fra immigrati e forze dell'ordine. Ma facciamo un passo indietro. Da novembre a marzo, ogni anno, un esercito di invisibili raccoglie arance e mandarini. Arrivano dal Ghana, dal Marocco, dal Mali, camminano a testa bassa, sono per lo più clandestini, pagati in nero, vivono in baraccopoli per 8 ore al giorno, di lavoro ricevono circa 25 euro. In tutta la Calabria si stima che vi siano circa 20.000 lavoratori stagionali stranieri, 2.000 solo a Rosarno. Un anno fa circa, il 12 dicembre 2008, due di loro, braccianti ventenni, vennero aggrediti e feriti a colpi di arma da fuoco. Ahmed, 21 anni, cittadino della Costa d'Avorio, finì in ospedale, gli asportarono la milza. A quel punto 500 fantasmi uscirono dalle loro catapecchie e sfilarono silenziosamente in corteo. Un anno dopo gli agrumi sono ancora maturi e nelle catapecchie nulla o poco è cambiato. Uno di loro è stato ferito da sconosciuti alcuni giorni fa con alcuni colpi di carabina ad aria compressa. Giovedì è scoppiata la rivolta, gli invisibili sono diventati visibili, i fantasmi sono usciti dalle baracche, hanno saltato le auto, hanno dato fuoco ai cassonetti, hanno bloccato la strada impugnando spranghe e bastoni. Cosa è accaduto ce lo racconta Norina Ventre, che è una signora di 85 anni, una vedova, un ex maestra calabrese che a Rosarno tutti chiamano Mamma Africa, perché da anni ogni domenica prepara da mangiare per il popolo degli stranieri. Giovedì dalla sua casa ha sentito i tafferugli in strada. Ho sentito le macchine, le autoambulanze, hanno bloccato la strada per Gioia Tauro. Ieri non si poteva uscire, Rosanna, che avevamo anche paura. Avevate paura, sì. Sì, perché ci sono ribellati, quindi poi è venuto, non so, il prefetto, li ha calmati, non si volevano calmare, hanno bloccato la strada per Gioia Tauro, hanno bloccato tutto. Sono state esagerate, io le dico che sono state esagerate, io domenica do da mangiare, li riunisco e li rimprovero, li richiamo, dico sì, è vero che voi vi dovete ribellare, per noi non in questa maniera esagerata, e però certe volte mi metto nei loro panni e capisco la loro reazione, poveri disgraziati. Lei che cosa fa esattamente per loro di io solito? Io do dei vestiti, li aiuto, faccio quello che posso. Io ho fatto un capannone e cucino per loro. Qualunque cosa vengono da me, mamma fame, do quello che posso, quelle cose. Lei cucina per loro, vero? Sì, cucino una volta alla settimana, certe volte cucino e lo porto là, nelle casette brutte di campagna. Io vado a vederlo, a cercare tra di loro, a vedere che cosa hanno bisogno, le coperte. A me piace dialogare con loro. Adesso devo sapere il vero motivo. Ma qual è il vero motivo, secondo lei? Perché li hanno sparati. No, non li hanno insultati, li hanno sparati. Lei pensa quando si vedono feriti? Sopportano tutto, dormono per terra. Però perché li hanno sparati? Perché ne devono sparare? Vengono per lavorare. Non vengono per rubare, non chiedono le mosse, non niente. Lei pensa, sta a digiuna, non mangiare, e ti insultano, vedi se reagisce, giusto? Noi diciamo in Calabria, l'uomo di uno dà un diavolo culo. L'uomo digiuno al diavolo a sedere. E la panza vuota, qualche altro dello Sarno mi ha rimproverato. Mi rimprovera e dice, tu li aiuti tanto, vedi che cosa è successo. Io non è che posso dare ragione a loro. Ma neanche torto, perché loro sono buoni e cai, sono obbedienti, sono umili, non chiedono l'elemosina, non hanno una certa dignità, non hanno una certa personalità, però quando li toccano esplodono. Forse sono altri ucraini, polacchi, questi qua sono più romeni, sono più invadenti, ma questi no, i neri. I neri se non li toccano sono buonissimi, rispettano tutti. Certo, quando li vanno a sparare... Anche Antonello Mangano, autore del libro Gli africani salveranno Rosarno, pubblicato l'anno scorso, distingue fra braccianti africani e braccianti che arrivano dall'est Europa. Ogni inverno dal 90 arrivano stranieri a Rosarno e la situazione è sempre peggiorata. Questa gente sopporta delle condizioni durissime. Adesso il posto in cui dormono è un'ex fabbrica senza tetto praticamente, quindi completamente diroccata. Che sta a Rosarno, un'altra che sta a Gioia Tauro, che è un'ex fabbrica dell'olio, per la raffinazione dell'olio d'oliva. Alcuni stanno praticamente all'aria aperta, non hanno neanche un tetto. e si adattano con dei cartoni per trovare, per creare delle stanze. Altri dormono proprio nei silos dell'olio, cioè nei tubi di metallo, in un'ex appunto fabbrica che serviva per la, in teoria per la raffinazione dell'olio d'oliva. Sono fabbriche dismesse, chiuse, perché comunque sono state spesso aperte, hanno ottenuto finanziamenti e poi sono state abbandonate, ce ne sono comunque tante lì. Quindi stanno lì per due motivi intanto: uno, perché non hanno i soldi sufficienti per affittare una casa, e due, anche se li avessero, come quelli che sono irregolari, non hanno la possibilità di affittarsi una casa, perché per legge si affitta agli irregolari e rischia il sequestro dell'immobile. Quindi comunque ogni anno ci sono promesse di politici, di enti per trovare una soluzione, perché è chiaro che una realtà assolutamente problematica che si presenta ad ogni inverno. Quello che nessuno sa dice è che la maggior parte dei raccoglitori sono rumeni e bulgari, non sono africani. Però la gente dell'est non appare, perché semplicemente da quando sono diventati neocomunitari la loro situazione è migliorata, nel senso che comunque possono andare e venire, possono affittarsi una casa, se gli conviene stare stanno, altrimenti tornano in patria con i furgoncini, eccetera. E gli africani questo non è possibile, perché non hanno una situazione di regolarità. Però a questa realtà si aggiunge la violenza, cioè ogni inverno gli africani in particolare sono vittime di episodi di violenza, di aggressioni, di gente che spara addosso, più per gioco che per reali motivi. Ci sono stati tentativi di rapina, però la maggior parte degli episodi di violenza sono gratuiti. Loro, per esempio, alcuni anni fa scrissero al sindaco di Rosarno una lettera in cui dicevano: non ne possiamo più di questi giovani ignoranti armati che ci sparano addosso senza motivo. L'anno scorso si sono ribellati, questa rivolta non è stata compresa, cioè non è stato capito che questa gente non ne può più di questo tipo di violenza gratuita, perché allo sfruttamento non si può aggiungere anche questa situazione di queste aggressioni continue e immotivate. Per cui è chiaro che la rabbia covava ed esplosa all'improvviso poi. Non attribuisci le violenze che subiscono a forme di caporalato o situazioni di vessazione, ma quanto piuttosto a, diciamo, del razzismo generato da gruppi di giovani? È questo il contesto? Guarda, sì, per un motivo molto semplice, che l'assfruttamento, il caporalato ci sono anche in Puglia, ci sono anche in altre realtà. Loro in qualche modo dicono sempre: noi siamo qui per lavorare, anche in condizioni dure possiamo accettare di lavorare. Quello che non possiamo accettare è di essere trattati così, non possiamo accettare che dei ragazzini ci sparino addosso. Ma sono dei ragazzini questi che sparano addosso? Non sono solo ragazzini, però spesso c'è una microcriminalità molto diffusa, insomma. Che sia razzismo, cioè è un tipo particolare di razzismo, Non si attacca il nero perché è nero, si attacca il debole, cioè la persona che cammina a piedi, che è indifesa, che non può andare neanche alla polizia. Quindi comunque non è una forma di razzismo in senso stretto, è una forma di vigliaccheria. Vigliaccheria o meno, gli immigrati sono stati spesso oggetto nell'ultimo anno di violenze e attacchi. Il 19 luglio scorso l'ex cartiera di Rosarno, dove dormivano molti immigrati, è stata distrutta dalle fiamme. 4 gli immigrati feriti, distrutti i loro documenti e le loro poche cose. Mi chiamo Steven, vengo da Ghana. Cosa è successo ieri? Era bruttissimo. Noi stiamo qui. Siamo qui. Fuoco. Bruciato tutta la nostra roba. Tutti. Documento. Vestiti. Tutti. Tutti cose. No, prima chiamiamo Fegge di fuoco, ma loro non ascoltati. Quando loro venire, tutto roba sono bruciato. Governo di Italia devo aiutare neri, perché siamo qui per lavorare, non rubare. Un paio di mesi prima, il 19 maggio 2009, le cronache dei radiogiornali e dei telegiornali locali annunciavano l'arresto di 3 imprenditori agricoli italiani. Durante una conferenza stampa del Comando Provinciale dei Carabinieri di Reggio Calabria, il procuratore aggiunto Michele Prestipino e il colonnello Leonardo Alestra hanno riferito alla stampa i dettagli riguardanti l'arresto di 3 imprenditori agricoli di Rosarno, Francesco Tripodi, Rocco Spagnola e Annunziato La Rosa, e dei 2 cittadini bulgari ricercati a Rosarno. L'accusa nei loro confronti è di associazione per delinquere finalizzata alla riduzione in schiavitù, favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, induzione alla prostituzione ed estorsione. Dall'indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria condotta dai Carabinieri di Rosarno è emersa l'esistenza di un'associazione di cui i 3 arrestati erano i capi, promotori ed organizzatori. I fermati utilizzavano i mezzi derivanti dalla possibilità di gestire l'offerta di lavoro in relazione ad un considerevole numero di terreni ed imprese allo scopo di sfruttare il lavoro sotto costo di cittadini stranieri privi di permesso di soggiorno in condizioni di estrema povertà, e li destinavano al lavoro di braccianti agricoli in condizioni disumane con ogni condizione climatica per 9-10 ore di seguito al giorno senza alcun dispositivo di protezione, li percuotevano in caso di rallentamento nel ritmo di raccolta degli agrumi e li obbligavano ad accettare un salario giornaliero pari a 23 euro, cifra di molto inferiore rispetto alla normale retribuzione giornaliera spettante ai braccianti. Di Rosarno si è occupato in passato anche Gabriele Del Grande, fondatore di Fortness Europe e autore di Mamadou va a morire. Il libro è uscito nel 2007, è stato un piccolo caso editoriale, nel suo piccolo è andato molto bene in Italia, è stato tradotto in 2 lingue e appunto il lavoro continua sul sito, su un sito che si chiama Fortress Europe, che è un osservatorio particolare sulle vittime dell'immigrazione nel Mediterraneo, quindi una raccolta dati su tutte quante gli incidenti che si sono verificati negli ultimi 20 anni lungo le varie frontiere dell'Europa, sia nel Mediterraneo ma anche lungo il Sahara piuttosto che la frontiera orientale. E quindi facciamo tutti i mesi questa documentazione e facciamo ogni mese poi anche una serie di rapporti, di inchieste su vari campi, ma sempre insomma nel settore immigrazione, dalle politiche dei respingimenti fino alla situazione nei centri di detenzione, nei centri di identificazione e espulsione in Italia, fino anche a campagne come quella che abbiamo lanciato l'estate scorsa, Io non respingo, che ha visto la partecipazione di più di 80 città italiane con un centinaio di eventi appunto durante la visita di Gheddafi in Italia per dire no ai respingimenti. Del Grande è tornato in libreria con un libro che si intitola Roma senza fissa dimora, nel quale racconta 20 giorni vissuti con i senza tetto della capitale. Il libro è fatto proprio di storie, un po' un viaggio attraverso quelle frontiere sociali così vicine oppure così lontane, no? Quella città che l'hai lì sotto gli occhi, ma non attraversi mai, non la incontri mai, per cui lo sforzo non era tanto andare io a sentire cosa si prova, a stare in mezzo alla strada, aver freddo la mattina o avere la schiena a pezzi, perché non è quello il vissuto, no? E non può essere tuo di te che vai per 20 giorni sapendo che poi torni a casa. Era invece l'idea di condividere uno spazio per incontrare delle persone e raccontare poi la storia e quindi restituirgli un nome, una dignità, un'umanità in qualche modo. Ci racconti alcune di queste storie? Un episodio che racconto nel libro in cui mi sono trovato protagonista di una rissa, mio malgrado, con una bella zuccata in fronte che mi sono preso, e allo stesso tempo, in quello stesso contesto, mi sono stato accolto da 3 persone, in particolare alla stazione Termini di Roma, 3 cinquantenni, un toscano, un romano e un altro di Latina, i quali sono stati un po' voi miei Virgilio in qualche modo in questo viaggio, mi hanno accompagnato in questa discesa agli inferi, chiamiamolo così tra virgolette, ed era un toscano, un ex manager di un'importante compagnia italiana che era finito sulla strada dopo una depressione a seguito della morte della moglie. E quindi avevamo lato la carriera e tutto quanto, si era lasciato andare piano piano fino a arrivare in mezzo alla strada, c'era un altro cinquantenne, un romano che sulla strada ci stava fin dal ragazzino, insomma, da quando campava gli espedienti, di furti e quant'altro, che si era poi trovato invece senza casa dopo la morte della madre e quindi il ritiro dell'alloggio popolare dove era cresciuto insieme alla madre, perché lui da solo non aveva i punti per mantenere la casa. E poi l'altro, Paolo, quello di Latina, che invece mi fece capire per la prima volta, ancora non sapevo che esistesse questo tipo di droghe, che sulla strada appunto una delle droghe più diffuse è una droga legale, legalissima, che si compra in farmacia, non psicofarmaco, che si chiama Rivotril, e che è assunto in dose un pochino più massicce, veramente trova degli effetti devastanti, poi veramente ce ne sarebbero tante altre. Ed è tutto per questa puntata di Figli di un Dio Minore. Io vi do appuntamento domenica prossima, sempre sulle frequenze di Radio 24 alle 14:15. Una buona giornata da Valentina Furlanetto.